adesso la sigla del Jet Live, così non sto ad ammorbarvi, siete all'ascolto, Radio Città Fujiko, Jet Live, bla bla bla bla. Ma entriamo subito nella seconda parte di presentazione. Abbiamo deciso di scindere in due parti il Bologna Jazz Festival, perché è veramente molto corposo per questa stagione e ricco di presenze eterogenee e allo stesso tempo di prestigioso talento. Sì, la volta scorsa abbiamo sentito Francesco Bettini che ci ha riassunto per sommi capi le caratteristiche generali e le scelte artistiche, visto che lui è il direttore artistico del festival, in particolare per quelli che sono gli appuntamenti curati esattamente dagli amici del Festival di Bologna. Poi ci sono i vari tantissimi concerti altrettanto interessanti per nei club, nelle location, dentro e fuori Bologna, però quest'oggi invece andiamo su altri aspetti del festival. Certo, intanto diamo la precedenza a Federico Muti, che è presidente, carico di entusiasmo, ne ha ben d'onde per questa edizione del Bologna Jazz Festival. Direi di iniziare sentendo le sue parole. Diciamo che il pubblico evidentemente già era maggiorenne in questo e quindi erano già rodati, però devo dire abbiamo fatto un bel lavoro, perché quest'anno stiamo facendo tutti sold out, quindi questa è un'ottima notizia. È un anno che abbiamo puntato su diciamo non il nome mainstream e altri attorno, ma vari nomi forti, nomi che anche sono cresciuti, come ad esempio quello di Romy. Romy l'abbiamo vista oltre 10 anni fa a Ferrara al Comunale in un concerto che non era pienissimo, e adesso invece è diventata proprio una star internazionale, così come Samara Joy, che abbiamo organizzato un paio d'anni fa in un club e quest'anno ha vinto 2 Grammy Awards, tra l'altro togliendolo ai Maneskin, buona pace di molti adolescenti che andranno a vedersi ma chi è questa Samara che ha tolto il premio. Magari crescono. I nostri Beniamini, ma cioè no, si cresce con tutta la musica, tanto è bello e importante che degli artisti che all'inizio organizzavamo in club o comunque in venue più ridotte oggi siano le stelle, insomma le punte di diamante che riempono dei teatri da mille posti, questo significa qualcosa. Allora, intanto sì, questo lavoro di Jetzer è stato un lavoro davvero faticoso, perché mettere in piedi una fondazione che lavora insomma a 360 gradi distribuita in Emilia Romagna non è facile, così come non è facile fare una fondazione. E noi diciamo quest'anno abbiamo avuto le conferme di praticamente tutti i club, anche con i nuovi, le new entry, tipo lo Sghetto, insomma quelli più rivolti ai ragazzi, ai giovani. E secondo me la cosa bella quest'anno da ricordare è questo progetto delle illustratrici iraniane che aderisce alla protesta, al movimento Donna Vita Libertà. Sono varie illustrazioni a tema musica e capelli, ci sono molte donne che suonano i propri capelli. È stato molto bello anche ascoltare le parole di una delle autrici che ha raccontato la sua drammatica esperienza, gli arresti che ha subito per come andava in giro vestita normalmente, no? E il fatto che si possa dare voce, avere voce e dare voce anche sul palco a un messaggio politico di forte importanza sociale, questo per noi è un onore poterlo accogliere, diciamo. Guarda, la formula che noi abbiamo è una formula pienamente riuscita. Quest'anno abbiamo finito anche, abbiamo un numero di abbonamenti che è stato raggiunto, potevamo venderne anche il doppio. Ora, al di là del banalissimo avere più soldi, che chiaramente quello è ogni festival lo vorrebbe, in realtà una crescita organica come è stato in questi anni, che possa continuare in maniera funzionale, non disfunzionale. Cioè in un festival come questo non serve uno che arriva con la milionata, ossia chiaro che aiuterebbe, ma il fatto che le istituzioni e gli sponsor comprendano il valore di questo festival radicatissimo in questa città, in questa regione, che possano piano piano accompagnare questa crescita organica e ad esempio avere delle venue un po' più capienti, avere la possibilità di anche portare i ragazzi a nulla a teatro, facendoli pagare niente o poco, di modo da formarli. Ecco, questo secondo me è poter portare avanti questo progetto e non avere ostacoli. Ecco, questo è quello che chiedo. E che ti auguro con tutto il cuore. Grazie della disponibilità, buon festival. Grazie mille. Can't get over last night your lips were too appealing, and the thrill should have been all gone by today. In the usual way. But it's only your arms I'm out of. Can't get out of this dream. What a fool to dream of you. 'Twasn't part of my scheme to sigh and tell you that I love you. Feeling just can't get out of this mood. Last night your lips were too appealing, and the thrill should have been all gone by today in the usual way. But it's only your arms I'm out of. Can't get out of this dream. What a fool to dream. Da questo mood, can't get out of this mood. È una song di Samara Joy insieme al suo quartetto. È una song che comunque è un interprete, lei di grande classe, giovanissima e grande qualità. Ricorda le song. Beh, una classe, modo, un classicissimo modo di cantare alla Sarah Vaughan, per esempio. Sì. Per altri Sarah Vaughan è uguale, sempre lei. Ma voglio dire una cosa su questa Mutti, perché è molto interessante. Perché a parte la rinnovata merito, il rinnovato merito di fare, di lavorare per un nuovo pubblico giovane, questo è un classico del Festival del Jazz, e anche di, è un'impronta di Mutti, io credo. Ma il fatto che siano così questi sold out, questo pienone, di un pubblico maggiorenne, sì, va in contrasto con altri luoghi pubblici che invece lamentano una disabitudine del pubblico dopo il Covid a uscire di casa. E invece il festival, questo, il Covid l'ha superato. Onore è un ottimo vaccino il jazz. Sì, è una 18ª edizione, ha giocato su questo Federico in apertura di conversazione, per un pubblico che a quanto pare, indipendentemente dall'età anagrafica, per il gusto musicale risulta curioso. Anche perché c'è di tutto, se vai da Locomotive a questo canto di Samara Joy fino a Frizzell, l'NBA Music di Steve Coleman, insomma c'è la chitarra sul Max Ribot che sarà il 5 dicembre al, che nel Cubo, no? Nel CAT, all'Unipol Auditorium, certo. Sì, come sarà Samara Joy, che invece è il 17 novembre. Poi adesso stiamo così portando informazione dalla prossima tanto puntata chilo. In maniera cronologica vi sarà la presentazione settimana per settimana, da seguire anche sul sito di radiocittafucico.it giorno per giorno. Donna, vita e libertà sono parole che risuonano in ogni manifestazione in Iran e in più parti del mondo. Protesta continua da anni, in particolare dopo l'omicidio di Mahsa Amini, arrestata e percossa a morte in una stazione di polizia. Mentre non si arrestano sparizioni forzate, torture, repressioni violente e intimidazioni, cresce una rivoluzione potente carica di simboli e di significati a cui aderisce anche il mondo del jazz. Anche questa attenzione per quanto riguarda la realtà iraniana ai danni delle donne è una cosa che ha dato la parte da protagoniste per quella che è l'immagine sull'autobus, sugli autobus per meglio dire, o anche sui cartelloni che troviamo per la nostra città. La descrivo ancora una volta: capelli sono stati importanti per questa protesta e quindi le donne hanno queste acconciature che si trasformano in strumenti musicali. È un disegno, sono disegni molto particolari e molto intensi. Sappiamo che la curatela del progetto grafico per quanto riguarda il Bologna Jazz Festival è di Vanni Masala, che ho contattato durante la conferenza stampa, quindi io direi di sentire le sue parole. Appuntamento fisso con il Bologna Jazz Festival, che è con Vanni Masala. Siamo qui proprio in presentazione. Ogni anno si cambia per quanto riguarda l'aspetto della rappresentazione anche grafica. Quest'anno siamo rivolti verso l'Iran. Con quali protagoniste, Vanni? Bisogna premettere che il jazz non è mai stato una musica fine a se stessa, è sempre calato nel sociale. Inutile che parliamo delle origini del free jazz, del bebop, eccetera eccetera. Il Bologna Jazz Festival da anni ormai è attento a ciò che lo circonda, e in particolare con il progetto Illustratrici quest'anno vuole aprire uno spiraglio, una finestra sulla lotta che le donne soprattutto, ma non solo, stanno svolgendo in Iran per la liberazione, diciamo così, dalla repressione da parte del governo iraniano. Quest'anno abbiamo scelto 4 illustratrici iraniane, una residente a Bologna, una a Londra, una a Los Angeles e una a New York, che hanno insieme creato l'immagine grafica complessiva del Bologna Jazz Festival. Il progetto si chiama Donna, Vita e Libertà e focerà anche in una mostra in sala borsa che sarà inaugurata il 3 novembre. Queste donne, giovani donne, hanno in particolare orientato la propria ricerca nello sviluppare le immagini sulla musica, ma anche sui capelli, che sono un po' il simbolo della rivolta iraniana. Dove troveremo queste immagini? Le troveremo sui muri della città, sugli autobus, sulle magliette. Come al solito, l'immagine coordinata del Bologna Jazz Festival avvolge la città, diciamo così, e per l'appunto anche tutte insieme in questa esposizione che Sala Borsa ospiterà durante il periodo del festival. Io ti ringrazio tantissimo e ti auguro un buon festival. Grazie a te, ciao. Hardly breathe. But time goes on, I've had to. uno dei dischi dell'anno per me. Questo è più brano del Buongiorno per il Breakfast Club piuttosto che nella colonna sonora del Jet Live. Però, come abbiamo detto, sentiremo diversi aspetti nelle sonorità di questa rassegna. Sto parlando di Alpha Mist, e a proposito di sedi che sono insieme al Bologna Jet, è il Locomotive Club. Sai, no, c'è molta attività al Locomotive Club. Sei stato pure tu ad ascoltare concerti bellissimi, sì, indirizzati a un pubblico quanto mai esteso. Ma sai che, tornando al discorso di Masala, abbiamo già notato come curiosamente i capelli siano misura di libertà. Sembrerebbe una cosa priva di senso. Ma sì, no, tu non... ci tieni a questa cosa perché io non perché ne è curiosa, ho. Perché è curiosa, perché in Iran appunto si rischia la pelle, sì, per avere i capelli fuori dal velo. C'è, cioè, una cosa fuori. Sì. Paradossale, ma ricordiamo come prima, non so, i ragazzi che stracciavano la cartolina per andare in Vietnam, certo, capelli lunghi, e quando li beccavano i marines li tosavano a zero. Sì. E il capello lungo è stato sempre sintomo di rivoluzione, da Garibaldi, Che Guevara, mentre il capello corto, adesso senza il rispetto, però no, insomma, mi sto cercando di rimediare. Sì, è sempre segno di militarizzazione, cioè Pinochet non portava i capelli lunghi, per dire, i nazisti neanche. In Naya la prima cosa ti tagliano i capelli. Sembra che il capello sia un ostentato, odiosa di voglia di libertà. Concludiamo allora, last but not least, io direi, perché troveremo, sempre se ne avrà disponibilità, ma visto l'entusiasmo di Emiliano, penso proprio che lo troveremo in diretta con noi per quanto riguarda la rassegna Jazz Insight. È con lui che concludiamo questa puntata speciale di Jazz Live, e almeno sentiamo in rassegna chi, sì, saranno i protagonisti. Ricordiamo che Pinidori edizione è anche poi protagonista di un concerto, credo, la Camera Club. Al Jazz Camera Club, certo. Ascoltiamo intanto in generale Jazz Insight. Emiliano Pintori, Bologna Jazz Festival, edizione 18esima, anno 2023, la rassegna nella rassegna del Jazz Insight. Intanto buongiorno e ben ritrovato, Emiliano. Buongiorno, grazie. Quali protagonisti avremo e quando si parte? Allora, si parte sabato 4 novembre con un pomeriggio dedicato a Cedar Walton. E ospiti naturalmente Piero Dorici, che ha suonato a lungo con Cedar Walton, e poi Paolo Benedettini e Adam Pash. Sempre sabato 11 novembre invece è una serata dedicata a Massimo Urbani, il grande contraltista romano che è mancato 30 anni fa, con anche qui Carlo Atti, quindi un grande musicista che è stato a contatto con Massimo Urbani, Filippo Cassanelli e Andrea Grillini. La novità di quest'anno è che gli incontri saranno non solo il sabato, che sono i primi due, ma saranno anche infrasettimanali, quindi mercoledì 15 novembre è una serata chiamata Thanks Mr. Hammond, che è dedicata a un ingegnere, il signor Lawrence Hammond, che ha creato questo bellissimo strumento, quindi si parlerà dello strumento e anche dei grandi protagonisti nell'ambito del jazz, non mi estendo ad altri mondi musicali. Martedì, attenzione, non mercoledì, 21 novembre, invece è un incontro dedicato a San Ra, con un duo inedito, perché ci sarà Fabrizio Puglisi al pianoforte, anche al sintetizzatore, io all'organo, non è il mondo in questo caso. E mercoledì 29 novembre invece una serata dedicata a Nina Simone con Silvia Donati. Le serate infrasettimanali saranno alle 18, mentre quelle del sabato alle 17.30. Ricordo che per prenotare, che è una cosa molto consigliata, andate sul sito del Museo della Musica, c'è un'indicazione per prenotare online. Poi il Museo della Musica è, perché non lo sapesse, in Strada Maggiore 34. Bene, e per quanto riguarda questi appuntamenti, se ne avremo la possibilità, ne daremo presentazione in approfondimento anche nel Jazz Live ogni venerdì, come ben sapete, 11.30, 12.30 su Radio Città Fugico, e tu sarai ospite. Io accetto volentieri l'invito, perché anche quella è una tradizione ormai, quindi se non ci sono altri impedimenti cerco di esserci molto volentieri. Ultima domanda, vedo che è estremamente eterogenea questa Jazz Insight del 2023, puoi trovarci un filo conduttore o confermi le eterogeneità che ho avuto come intuizione? Sì, hai avuto un'ottima intuizione, però c'è un'eterogeneità come linea generale di questo progetto. A volte magari si è orientata verso altri settori, però l'idea è così dare spazio a tanti mondi diversi. Il jazz soprattutto oggi va in tante direzioni diverse, quindi anche, e la sua storia anche è stata in tante direzioni, quindi è interessante proporre prospettive differenti e chiamare anche artisti differenti che suoneranno queste musiche. Ti lascio lavorare. Grazie. Grazie, grazie a voi. grazie Emiliano, che ritroveremo comunque, ci conto, anzi ci contiamo per il Jazz Live. L'ultimo brano in programma è per ricordare una sede molto prestigiosa che è il Must Auditorium, alle ore 21 giovedì 16 novembre James Brandon Lewis Quartet. Abbiamo chiuso in bellezza. Grandissimo, anche qui consigliamo prenotare, sì, perché anche qui i posti sono ambiti. È un posto veramente molto particolare, una sede concertistica e non solo, dove l'acustica tra l'altro è veramente spettacolare e perfetta. Lui grandissimo talento, avremo modo di parlarne. E con questo brano dal sapore molto adeniano noi dobbiamo salutare. Ciao. E quindi diamo appuntamento a venerdì prossimo, augurandovi un buon jazz, un buon weekend. E c'è anche il sole. Eccolo qua. Ciao a tutte, ciao a tutti, da William e Alfredo. Ciao.